Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Benvenuti a Tra le righe da Adelaide. In una delle mie recensioni ho parlato del libro La vita accanto di Maria Pia Veladiano. Oggi l'autrice vicentina è con noi a Tra le righe. Le interviste di Tra le righe. Benvenuta Maria Pia Veladiano su Radio Libiamoci Web. È un piacere averla con noi per parlare di questo suo libro La vita accanto, pubblicato da Einaudi. Buonasera. Buonasera a voi. È un bel esordio il suo, perché lei con questo libro ha vinto il premio Calvino nel 2010, poi, se non erro, è arrivato secondo al premio Strega nel 2011 e sembra che stia per diventare un film, mi sbaglio? Sì, è così, non si sa, i diritti sono stati comprati da Mario Bellocchio, ma poi... comunque è ancora, come dire, un po' un'idea, insomma, non si sa questo. Comunque i diritti li ha acquisiti Mario Bellocchio. Dovrebbe diventare invece, forse più, diciamo, in tempi più brevi, un lavoro teatrale. Ah, bellissima trasposizione, questo non lo sapevo, anche perché si presta molto. Lei ha una scrittura che fa immaginare molto e facilmente quello che accade, l'ambiente, la ricostruzione del luogo, che è la sua Vicenza, no? Sì, io sono di Vicenza, una città bellissima. E il suo è un esordio molto bello, a parte questi riconoscimenti c'è anche una calorosa accoglienza dei lettori. Ha un'autrice che esordisce così, è lecito chiedere se lo sarebbe mai aspettato e come si sta confrontando con queste attenzioni verso la sua creatura? Non me lo sarei mai aspettato, no, perché anzi avevo messo in campo, intanto che usciva questo libro, avevo messo in campo anche altri progetti che comportavano e comportano, diciamo, una grossa trasformazione della mia vita. Mi sono trasferito, ho cambiato lavoro, questo perché pensavo, vabbè, insomma, pubblico un libro e poi continuo la mia vita. Invece in realtà è stato molto diverso da come mi aspettavo. È capitato praticamente che dalla settimana dopo che è uscito il libro, proprio immediatamente, per un lavoro più di tam-tam, di passaparola tra lettori, ho cominciato a ricevere tantissime lettere, tantissime mail, prima inviate alla casa editrice, poi il Calvino che me le girava, insomma adesso arrivano attraverso Facebook, attraverso gli indirizzi pubblici che ho, di lettori e lettrici che mi restituivano il libro con una partecipazione che richiedeva poi la risposta, che richiedeva un dialogo. È passato poco più di un anno e ho relazioni con centinaia di lettori che mi scrivono e che mi dicono le sensazioni che hanno. È stato, diciamo, questo aspetto forse l'aspetto più travolgente, e poi l'altro quello di, come dire, di avere questa richiesta di interventi sui giornali, come un interesse per la scrittura al di là del libro, e non anche questo non mi aspettavo. È un po' veramente tutto un regalo, io lo definisco così perché non ho un'espressione diversa che dica quello che è capitato, insomma. Ho letto che lei ha impiegato 4 anni per scriverlo, è così? E come mai questa lunga gestazione? Ma un pochino meno in realtà, 3 anni e qualcosa, ma la storia forse ci ho messo meno. Poi è stato un lavoro di scrittura e riscrittura. Sulla scrittura ho lavorato molto perché cercavo il suono. Io credo che ogni storia abbia un proprio suono e bisogna che ogni storia sia accompagnata dal suono giusto. Delle due componenti un po' di ogni narrazione, la storia e il suono, oggi si dà una grande prevalenza alla storia, ma in realtà la scrittura è moltissimo suono, musica. Uno dei miei autori preferiti è Francesco Biamonti, che è questo autore, diciamo, ligure, che ha scritto libri brevissimi in cui ogni poesia è come una specie di partitura da leggere ad alta voce, da sentire da cercare cosa ha voluto passare, che sono spesso suoni di vento, suoni di mare, perché lui aveva questi suoni nella sua penna. E quindi è stata una riscrittura continua in cerca di questo. D'altro canto, se uno pensa, le storie a noi arrivano attraverso il suono, prima che impariamo a leggere, qualcuno ce le racconta. Ed è come se quando poi leggiamo o scriviamo si avesse bisogno di trovare questa specie di suono d'origine che accompagna le storie. Per me la vita accanto è stato soprattutto questo lavoro di suoni. Poi c'era un'altra ragione. È una storia tremenda per alcuni aspetti, molto violenta, di una violenza estrema in tutte le sue figure. E c'è un modo oggi di presentare la violenza che è insopportabile, quel modo che io dico amicare al male, cioè presentarla descrivendola un po' splatter, un po' come battuta sulla testa del lettore o davanti ai suoi occhi. Io cercavo una scrittura che alleggerisse la violenza e il dolore della vita e non so se ci sono riuscita. Comunque i 3 anni sono stati quasi tutti di scrittura e riscrittura, non tanto della storia quanto proprio le parole. Infatti, quello che colpisce, che mi ha colpito, è questo ritmo che ha la narrazione, questa armonia, questa musicalità dalla prima all'ultima pagina. E quindi, più che poetica in alcuni punti, è davvero una specie di sonata, di suite armoniosa, delle parole. Andando al libro vero e proprio, che non riveleremo tutta la trama, lei parla di violenza e infatti c'è questa violenza piccolo, grande, che strisciante, che si rivela piano piano, che si incunea nella vita della protagonista, che è Rebecca, che fortunatamente incontra anche personaggi positivi. Rebecca è una bambina che nasce bruttissima. La cosa che di rilievo è che a questa bambina, fin dalla tenera età, viene data la consapevolezza di essere brutta, cioè non è stata protetta da questa, tra virgolette, informazione. E lei vive questa bruttezza come colpa, non come disgrazia. Sì, perché questo le viene passato. In realtà, nell'esperienza di insegnante, nell'esperienza un po' di vita, nessuna bambina, nessun bambino ha una percezione, diciamo, innata di essere brutto. È una percezione che viene data dall'ambiente. Tant'è vero che ci sono bambini, diciamo, particolari, magari non dentro ai canoni strettissimi che oggi caratterizzano la nostra società, che si sentono benissimo, che stanno benissimo. Dipende molto dalla percezione del mondo. In questo caso, il mondo ha restituito a lei, a Rebecca, nella vita accanto, ha restituito questa percezione, diciamo, di essere molto brutta, perché la bruttezza era esattamente di nuovo ancora nella storia, diciamo, familiare, un marchio legato a colpe antiche. Lei quando nasce sognata da una madre, come tutti i bambini nascono sognati, ma il sogno della madre portava con sé il sogno della sua famiglia d'origine, che era quello di uscire da una storia di dolori e di colpe. E lei avrebbe dovuto essere bellissima, o quantomeno molto bella, perché doveva chiudere questa storia di dolori e di colpe legate a una tara. Quando nasce così, è soprattutto questa dimensione della colpa che prevale, trasmessa dall'ambiente, nel senso che lei incarna la colpa che continua. Nello stesso tempo, quando lei nasce, la madre si, come dire, si rinchiude, si chiude alla sua femminilità, alla vita, e quindi c'è come un, come dire, un percepirsi colpevole. A parte che in generale i bambini, rispetto a ciò che capita intorno alla nascita o dopo la loro nascita, facilmente si sentono colpevoli perché hanno questo senso, come di onnipotenza rispetto agli avvenimenti che hanno intorno. Ma qui c'era tutta una storia che confluisce e che fa sentire così. E quindi questa vita accanto è una vita colpevole. Sì, Rebecca non ha a causa di questa sua bruttezza, non ha una vita sociale come tutti i bambini. Addirittura comincia anche tardi le scuole elementari per evitare che, anzi per fare in modo che fosse ritardato il suo ingresso nella società ed evitarle l'esposizione al pubblico ludibrio. Però questa forma di protezione operata nei confronti di Rebecca sembra molto ambigua, sembra più giovare agli adulti del microcosmo familiare di Rebecca che alla bambina stessa, perché poi sono questi adulti che mostrano le loro fragilità e le loro debolezze in confronto invece poi alla forza che deve tirare fuori questa bambina per andare avanti. Beh, sì, lei di fatto, rispetto alla famiglia malata, la famiglia malata è una madre che non riesce ad accoglierla, un padre che non riesce a prendere in mano la situazione, una zia molto ambigua. Rispetto alla famiglia malata, lei trova la sua accoglienza fuori. Questo capita fuori nel mondo, questo capita che le famiglie siano malate, non è una cosa oggi rara, è molto frequente. Ci sono famiglie apparentemente normalissime in cui gli affetti non circolano e questa è una tragedia se non c'è riparazione, ma la riparazione ci può essere quando c'è un mondo intorno, anche il fatto di persone assolutamente normali, non addette ai lavori, non lo psicologo della scuola o il parroco della parrocchia, ma proprio persone normali che semplicemente fanno il loro, cioè accettano il loro essere persone tra le altre, quindi accettano il mondo come sta e non dicono ah, come sarebbe bella la classe senza Rebecca, oppure come sarebbe bello il mondo senza il dolore o la colpa o altro. Cioè è un'accettazione della vita come sta e che può riparare i mali di questa vita. Rebecca trova delle persone, lei si salva perché le relazioni la salvano. Persone qualsiasi, una maestra, un'amica, un'altra maestra, un po' adulti che fanno gli adulti, che non si nascondono. Sì, che sono degli adulti che vanno oltre all'aspetto sgraziato di Rebecca, perché la vedono per quella che è dentro. Lei questa bruttezza fa da filtro, fa da lente nei confronti, confrontandosi con gli altri. Ci sono poi queste persone, come ha citato lei, il maestro di musica, la madre, la signora Delellis, che a sua volta si nasconde comunque, lei ha qualcosa da nascondere per proteggere suo figlio. È un'altra forma di protezione. Lei ha citato il padre di Rebecca, è una figura un po' che mi sfugge. Rebecca, a un certo punto del libro, parlando di suo padre con la sua amica Lucilla, dice: io non lo odio perché non so cosa significhi odiare? Mio padre è sfumato. E questo mi ha colpito. Quindi Rebecca ha delle lacune comunque, cresce, diventa donna, ma con delle lacune emozionali. Come tutti, vorrei vedere chi di noi è così equilibrato emozionalmente. Il fatto di aver avuto una ferita enorme, come nel caso di Rebecca. Rebecca ha una ferita legata al fatto di una madre che per lungo tempo lei ha creduto non l'amasse, e un'altra ferita legata a un padre che non sa prendere in mano la situazione, non la sa difendere nemmeno di fronte all'offesa più grave che poi le riceverà. Questo fa sì che in qualche modo ci siano due strade davanti a lei, o il vivere diciamo quasi esclusivamente la ferita, cioè tutta la vita così, perché questo è capitato e da lì non si può uscire, oppure il vivere una vita possibile, normale, non brillante, non di quel tipo di riscatto che è il palcoscenico, che è un mondo ai propri piedi perché siamo bravi in qualche cosa, ma una vita normale in cui affetti, nuovi affetti, il libro si chiude su una nuova famiglia di affetti, in cui, una vita normale in cui nuovi affetti la sostengono e però evidentemente a partire da quel che è, cioè da quel che è stata la sua esistenza, cioè un'esistenza in cui qualcosa di tremendo è accaduto, ma lei ha potuto lasciarlo, non dico alle spalle, ma lasciarlo accanto a sé, cioè non costantemente, non permettere che le rovinasse costantemente la vita. Questo è un po' l'esito. È vero che ha una ferita nelle emozioni, negli affetti, ma molti di noi ce l'hanno. L'importante è che non ci impedisca di vivere. Sì, Rebecca l'ha potuto fare perché ha un talento che fa da contraltare alla sua bruttezza. Lei ha il talento musicale che coltiva studiando pianoforte e grazie a questo talento entra nell'armonia appunto della musica, delle sonate e questo diventerà poi, sopravanzerà il senso di colpa, il senso della sua bruttezza e sarà quello con cui si confronterà poi con il mondo esterno. Diventerà quello il suo legame con il suo contatto col mondo, il suo talento, e così si salva, insomma, si redime, è una cosa positiva questo. Sì, la musica è senz'altro positiva, anche se non è l'elemento, diciamo, unico che permette a lei di vivere. È positiva perché nella casa del silenzio, in cui vive per una grande parte del libro, di questo libro La vita accanto, lei vive in una casa del silenzio in cui, come dire, le persone non le parlano e la sua voce non è sentita. Quando comincia a suonare, lei ha finalmente una voce, il suono passa i muri, attraversa le stanze silenziose, arriva probabilmente anche alla madre, lei lo spera, non ne sarà sicura, e questo le dà una voce. Ma quando lei poi affronta il mondo e va a scuola, non è che va a scuola con la potenza del suo talento. Quando lei va a scuola in prima elementare, non sa nemmeno se dare del tuo o del lei alla compagna, non arriva lì dicendo io so suonare benissimo, io so leggere e scrivere, lei arriva lì e non ha la voce per chiedere. Quello che sarà l'elemento determinante in tutta la sua vita sarà di incontrare di volta in volta delle persone che le restituiranno la relazione, cioè che le diranno tu esisti e vali, hai un valore per noi. Persone normali che sono la maestra, appunto l'amica e altre. L'altra maestra di musica e poi ancora il maestro di pianoforte. Sono tutte persone che fanno come le persone, cioè che assumono la vita vedendosi gli uni gli altri, e tutte e due le cose rappresentano salvezza. La musica è questo. Certo che la musica è il talento che le permette di in qualche modo superare la sua condizione. I talenti tutti li abbiamo, l'importante è riconoscerli gli uni gli altri. Lei troverà sulla strada qualcuno che dice: mamma mia, hai delle mani adatte a suonare, quindi suona. Dobbiamo trovare accanto a noi qualcuno che ci dice: sei brava a dipingere, sei capace di scrivere, sei portato per stare con gli altri, all'aiuto. Insomma, sono tutti i talenti che dobbiamo riconoscerci e si torna un po' al tema di vederci gli uni gli altri. Come diceva Hume, la bellezza è nella mente di chi osserva, ma è d'accordo questo? Sì, però evidentemente è qualcosa che poi deve uscire dalla mente e deve essere detto. E deve essere detto attraverso gesti o parole. Una mia studentessa ha scritto una volta in un compito una cosa bellissima, ha scritto: ogni donna amata si sente bellissima. Io ho scritto vicino che era una frase meravigliosa, ma che la correggerei dicendo: ogni persona amata si sente bellissima, cioè è il sapere di valere, di essere visti, che ci fa trasformare, che ci permette di esistere. Poi, evidentemente, il talento aiuta. Ad esempio, Rebecca, lei troverà nella musica il suo talento che le permetterà di fare quell'operazione che nel Vangelo si chiama trasfigurazione, che è il passare il divino attraverso la propria corporeità, attraverso la dimensione, diciamo, del nostro essere fisico, e diciamo, lei suonerà e questo sarà possibile. Lei farà questa operazione di trasfigurazione, attraverso di lei passerà la bellezza, però tutto questo è permesso dalle relazioni. Questa conversazione con lei capita a fagiolo perché mancano pochi giorni alla giornata internazionale della donna, quella che comunemente qualcuno chiama ancora festa della donna come se fosse una sagra paesana, è ancora una giornata densa di simboli e significativa, però ancora leggiamo nel 2012 articoli, trafiletti, dove si comunica che insomma ci sono, la bellezza determina una carriera per una donna, addirittura il trovare lavoro, e non parliamo del mondo dello spettacolo, ma del mondo comune del lavoro, nelle aziende, nelle imprese. Io le faccio questa domanda: perché è così difficile ancora oggi rendere giustizia alla dignità e alla competenza della donna, riconoscendole quelle capacità prima che lo stacco di coscia o il seno prosperoso? Ma c'è tutta una storia su questo, che però ormai purtroppo un po', devo dire, per molti aspetti ci accomuna gli uomini. Ci sono queste inchieste, c'è una bellissima inchiesta francese che è stata pubblicata in italiano da qualche mese, in cui si è fatta questa indagine nel mondo del lavoro mandando curriculum identici con foto diverse ad aziende. Identici come diciamo, caratteristiche di qualità e venivano selezionati per i colloqui assolutamente come in prevalenza le persone belle, le persone più belle, maschi e femmine che fossero, quindi, e non solo per diciamo, lavori di front office, ma anche per lavori diciamo, qualsiasi, insomma, per cui senza contatto col pubblico, quindi vuol dire che è diventato pervasivo ormai questa idea che l'apparire conta più di quello che si è e più delle proprie qualità. Questo è diffusissimo come percezione a scuola. Io ho fatto l'insegnante per tantissimi anni, 27. Se si parla con i ragazzi e le ragazze, loro capiscono benissimo questo, che la loro bravura non basterà. E che è a rischio perché c'è una società che valuta in modo diverso. Questo è qualcosa che noi consegniamo, un pezzo di mondo che noi consegniamo malato alle nuove generazioni e rispetto al quale loro devono fare assolutamente meglio per liberarsi da questa schiavitù e anche perché è un mondo che si priva della qualità, della vera qualità, quindi delle abilità, della capacità di fare. Si diceva in questo anno una cosa terribile da parte di alcune attrici che lavorano nel teatro e nel cinema. Dicevano che oggi verosimilmente un talento meraviglioso come Lana Magnani non passerebbe nessun provino, non perché ovviamente per problemi di bravura, ma perché sarebbe fuori canone. E mentre dicevano è sufficiente essere belli per passare un provino, non è sufficiente essere bravi per passarlo. E questo vuol dire proprio che è un mondo malato perché si priva delle forze belle, delle persone più capaci di dare qualcosa. Questo colpisce sicuramente più le donne in questo momento, ma non direi universalmente, credo che questo sia proprio un po' una patologia molto nostra, perché abbiamo permesso negli ultimi 20 anni, insomma, sicuramente una deriva legata anche a una deriva del potere, il potere visto come diciamo sopruso, come prevaricazione, che ha permesso di pensare che davvero tutto, ma proprio tutto, sia in vendita, insomma, anche il lavoro, il talento, che tutto sia in vendita. Vuol dire che tutto deve essere appetibile per essere venduto. Questa è una deriva che ha colpito effettivamente più le donne, perché probabilmente anche perché il potere è prevalentemente maschile e quindi questa modalità insomma, di deriva ha colpito più facilmente le donne. Ma penso che ci siano anche delle ragioni molto complesse da noi e da noi in Italia, dico, non è neanche così facile il lavoro di un controlavoro in questo senso perché c'è tutta una discriminazione che riguarda proprio anche l'ambito lavorativo, le donne lavorano molto meno degli uomini rispetto alla media europea, siamo 7, 8, 10 punti in meno a seconda delle zone dell'Italia e questo fa sì che in effetti sia tutto molto più complicato, chi non lavora è percepito come dotato di meno valore. E chi fa lavori meno retribuiti è percepito come dotato di meno valore, allora magari il valore viene cercato in altre forme. È un circolo che bisogna spezzare. Ecco perché anche non riusciamo a uscire da certi archetipi che se da un lato fanno ridere quando si chiacchiera con gli amici, dall'altro lato danno fastidio quando poi vengono diffusi da persone che hanno un ruolo nella società. Per esempio, quando l'anno scorso scesero in piazza le donne di Se non ora quando, non solo le donne, ma gran parte erano donne, ci fu chi, presumendola una battuta di spirito apprezzabile, disse che tutte quelle donne erano brutte, cioè le donne di Se non ora quando erano brutte. E persiste ancora questo ridicolo archetipo, che, anzi barzellettiano archetipo, che la donna impegnata è brutta, quindi finiremo ancora con l'andare avanti con la donna bionda stupida. Cosa abbiamo sbagliato noi donne? Cosa magari stiamo sbagliando tuttora nel confrontarci con questo mondo? Parlo delle donne italiane. Sì, ma intanto si è accettato molto nel corso degli anni e questo accettare non è stato sempre consapevole, qualche volta ci sono delle derive dalle quali ci si sveglia tutto in un colpo, cioè può capitare che siano degli scivolamenti, insomma, degli scivolamenti per cui non ci si rende conto di dove si sta andando. Poi bisogna anche dire, però adesso questo colpo un po' l'abbiamo ricevuto, cioè lo sappiamo, adesso abbiamo tutta una serie di consapevolezze, ce l'hanno anche, direi più precisamente anche le ragazze a scuola, sicuramente si è fatto, la scuola ha avuto una buona tenuta, insomma, io veramente sono tanti anni che lavoro e vedo che la riflessione su queste derive del femminile sono state fatte e non credo che siano state fatte per niente, insomma credo che portino un loro frutto, un loro lavoro. Però c'è stata una presenza martellante di modelli sbagliati. Io quando insegnavo facevo una fatica terrificante a trovare dei modelli di cui c'è un bisogno estremo. Modelli vuol dire proprio persone a cui riferirsi, modelli femminili in qualche modo che potessero essere interessanti per le mie ragazze. Io ero in una scuola quasi completamente femminile perché non sapevo dove guardare, insomma. E naturalmente si prendono certe bellissime figure di donne che hanno realizzato delle cose grandi, la Rita Levi Montalcini, ma per ragioni di età, ad esempio, era piuttosto difficile prenderla come un modello per le ragazzine che avevo a scuola. E se cercavo un modello nel potere politico, potevo trovare soltanto i ruoli di ministro, erano quasi sempre i ministri legati ai ministeri della cura, o comunque adesso abbiamo donne ministro che si occupano di ministeri tra i più importanti, quindi un po' anche lì forse qualcosa si sta facendo, si sveglia, si sta verificando. E quindi è proprio stato una specie di percorso di ottundimento nel tempo che secondo me sta invertendo la propria direzione. Maria Pia Veladiano, io la ringrazio molto per questa nostra chiacchierata e per questo suo libro bellissimo che consiglio, La vita accanto, e le Grazie. auguro un buon proseguimento e un buon lavoro. Grazie a lei. Buonasera. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.